The outside world is demonic, is demonic, is demonic, is demonic, is demonic. Hath pakad kar chalte rahe. Sono passati quasi 19 anni da quel 7 novembre 1987 quando Zine El Ebadine Ben Ali divenne il presidente della Tunisia, esautorando il suo predecessore Bourguiba. Sin dal 1987 Ben Ali è stato rieletto ogni 5 anni con la percentuale del 99%, nonostante proprio il giorno del suo insediamento venne annunciata una riforma della Costituzione per abrogare l'articolo sulla presidenza a vita e limitare a 2 anni la candidatura a presidente. Come tutti i paesi a basso tasso democratico, tante e controverse sono le questioni aperte in Tunisia. Da un lato esiste una costituzione che prevede l'applicazione dei principi base delle cosiddette democrazie occidentali, rispetto delle libertà individuali, separazione dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario e così via. Ma dall'altra parte il potere esecutivo esercita una pressione accentratrice e monopolizzatrice, che non è azzardato a definire dittatoriale. Sono proprio gli aspetti connessi alla legalità quelli che riguardano le violazioni più lampanti del caso Tunisia. Dall'Associazione Nazionale dei Magistrati a quella degli avvocati tunisini, in molti hanno preso voce denunciando la situazione degradante della giustizia nel paese, la violazione sistematica del principio fondamentale della inamovibilità dei magistrati, con il controllo diretto da parte del Ministero della Tutela, che è l'equivalente del nostro Ministero della Giustizia, nella designazione della sede dei magistrati. In particolare, l'Ordine degli Avvocati della Tunisia ha indetto delle iniziative e degli incontri per denunciare la loro situazione. E sono qua ospiti nei nostri studi di Roma di Amisnet. Come si articola il vostro consiglio? Quali sono i principi base della Costituzione tunisina e i timori di voi avvocati tunisini? Abderrazak Kilani, je suis membre du Conseil de l'Ordre des Avocats de Tunisie. Le barreau tunisien il se compose de. Mi presento, Abderrazak Kilani. Sono membro del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Tunisia, che si compone di circa 5.000 avvocati ed è diretto da un ordine e da un presidente. Le prerogative costituzionali dicono che i tre poteri, esecutivo, legislativo e giudiziario, devono essere poteri separati, che tutti i cittadini hanno diritto ad un processo giusto ed equo e che la Costituzione consacra nel principio della presunzione di innocenza. La Constitution, elle consacre aussi le principe de la présomption d'innocence. Seulement, nous constatons qu'il y a une volonté. Noi constatiamo che c'è una volontà del governo che vuole che gli avvocati siano in una situazione precaria, poiché essi interferiscono con l'azione illegale del governo, perché difendono la libertà e i diritti dell'uomo, condivise nel mondo e non solo nel nostro paese. Oggi viviamo una grave crisi in seguito al voto dell'Assemblea nazionale, avvenuto lo scorso 15 maggio, di una legge sull'istituto dell'avvocatura, procedura che era stata iniziata dagli avvocati stessi. La legge non corrisponde alle aspirazioni degli avvocati e al progetto iniziale che era stato presentato dall'Ordine degli Avvocati. La nuova legge mette i vertici dell'amministrazione di questo istituto sotto i vertici del Ministero della Giustizia. È un qualcosa di contrario alla legge sulla professione di avvocato, che prevede la libertà e l'indipendenza professionale, così come sancito dalle convenzioni internazionali alle quali la Tunisia aderisce. C'est contraire aussi au principe sur l'indépendance de la profession d'avocat qui sont consacrées par les conventions internationales auxquelles la Tunisie a adhéré. Un istituto degli avvocati diretto dal Ministero della Giustizia non può formare avvocati, perché questa non è la vocazione del Ministero della Giustizia. Non può formare avvocati perché non è la vocazione del Ministero della Giustizia. Ospite nei nostri studi anche il presidente del Consiglio degli Avvocati di Tunisi, Shalebeddin Chokki. Chi dovrebbe vigilare il rispetto della vostra Costituzione? Nous avons peut-être des institutions qui existent. Nous avons par exemple le Conseil constitutionnel. C'est un conseil qui a été instauré, je pense, en 1989. Abbiamo delle istituzioni, come il Consiglio Costituzionale, che è stato istituito nel 1989, con il fine di valutare se le leggi sono conformi alla Costituzione. Sfortunatamente, tale Consiglio non ha mai censurato né criticato le leggi emanate dal potere esecutivo. Non sono mai state prese decisioni giuridiche che proclamino l'incostituzionalità di certe leggi. È un problema di applicazione di questo principio, che è molto retrograda. Le condizioni sono molto difficili. Come Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Tunisi, ho ricevuto molti reclami di colleghe e colleghi che hanno subito violenze esercitando la nostra professione. La sorte degli avvocati dipende sempre dall'umore del ministero. È una situazione disonorevole. E ça dépend de l'humeur du ministère. Parfois on essaie de corriger, parfois quand ça grince entre les avocats et le ministère. Donc on laisse les choses comme ça ambuler de façon, je dirais, déshonorante. Molti i casi che riguardano le violazioni dei diritti in Tunisia, tanto che l'International Freedom of Expression Exchange, IFEX, un network di 72 organizzazioni impegnate nella libertà di espressione, ha creato il Tunisian Monitoring Group per seguire i progressi fatti dalla Tunisia nel campo delle libertà di espressione. Il progetto è partito dopo la prima fase del World Summit on Information Society, il WISIS, svoltosi a Ginevra nel 2003. Lì fu deciso di svolgere una seconda fase del summit proprio a Tunisi e le organizzazioni attive per la libertà di espressione presero la palla al balzo per porre l'accento sul caso tunisino. IFEX, Tunisia Monitoring Group, ha compiuto recentemente un'altra missione in Tunisia per capire come dopo il WISIS fossero o meno cambiate le condizioni per la libertà di espressione nella vecchia Cartagine. 5 mesi dopo il WISIS, le violazioni dei diritti di espressione, di stampa, di associazione, di diritti umani di base sono ancora in corso, si legge nel loro ultimo report. Nonostante queste denunce, la Tunisia è recentemente entrata nel nuovo Consiglio dei diritti dell'uomo presso le Nazioni Unite. Sentiamo l'opinione di un altro avvocato, la signora Hadiana Zahri, l'associazione per combattere la tortura in Tunisia. Ah bah ça c'est scandaleux, ça a fait rire des gens, ça a révolté d'autres gens. Questo è scandaloso, non si capisce come sia possibile che le Nazioni Unite accettino che la Tunisia faccia parte di questo consiglio. Il nostro governo è un regime che non rispetta i requisiti minimi di democrazia, tutti i diritti di base sono violati in Tunisia. Le persone possono essere torturate per le loro opinioni, possono essere condannate a decine di anni per le loro opinioni. La giustizia non è indipendente, tutte le attività della società civile sono vietate. La presenza della Tunisia nel Consiglio dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite è un colpo duro alla sua credibilità. Sono interdite de toute activité. Donc je ne sais pas, à mon avis ça touche vraiment à la crédibilité de ce conseil. Il ne peut pas être crédible s'il compte parmi ses membres des pays où il n'y a pas de démocratie. C'est quand même pas normal. Sempre un avvocato sta diventando il simbolo della protesta legale in Tunisia. Stiamo parlando di Maître Abou. Durante l'ultima missione nel paese magrebino del Tunisian Monitoring Group, gli operatori hanno cercato di incontrare proprio Maître Abou. Non gli è stato consentito, ma per capire la tensione intorno ai prigionieri politici sentiamo la testimonianza diretta di quel giorno fatta da Francesco Biasio, capo missione del Tunisian Monitoring Group. Ci troviamo in questo momento a Lekef, alla prigione di Lekef, una cittadina che si trova a circa 40 km dalla frontiera algerina, dove è detenuto Maître Abou, l'avvocato Abou, che in questo momento sta scontando 3 anni e mezzo di reclusione per ragioni prettamente politiche, per aver criticato lui stesso le carceri tunisine comparandole ad Abu Ghraib. In questo momento stiamo aspettando semplicemente il permesso da parte del direttore, anche perché teoricamente gli osservatori internazionali non hanno il diritto di visitare i prigionieri, che possono ricevere visite soltanto dagli stretti familiari e dal proprio avvocato. Il caso di Abou è diventato un caso simbolo qui in Tunisia e più di 200 avvocati stanno in questo momento cercando di difendere il suo caso, anche se il giudizio definitivo è stato pronunciato qualche giorno fa e a quanto pare si troverà a scontare in questa piccola prigione all'Ekef i suoi 3 anni e mezzo di reclusione. Torniamo da Maître Kilami, che tra l'altro è tra i difensori di Maître Abou. Per le vostre iniziative di denuncia dell'autoritarismo del governo tunisino avete avuto molti segni di solidarietà dall'estero, dagli avvocati senegalesi a quelli del Mali, fino anche da Francia e Italia. Che tipo di risposte vi aspettate dall'Unione Europea? Vous savez che la Tunisia ha signé un traité avec l'Unione Europea. La Tunisia ha stipulato con l'Unione Europea un trattato di cui all'articolo 2 il governo tunisino si impegna a rispettare le libertà e i diritti dell'uomo. Sono dell'idea che gli europei dovrebbero venire sul luogo e verificare sul campo se le libertà sono rispettate o meno. Sì, veramente, le libertà sono rispettive o pas. Questo speciale è stato realizzato da Lorenzo Nania e Roberto Orlando per Amnesty.